I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il ministro del lavoro Giuliano Poletti è tornato ieri a parlare dei possibili interventi per modificare la legge Fornero, che dal 2012 ha riformato il sistema pensionistico. E non è la prima volta che il ministro conferma come le correzioni alla riforma delle pensioni siano un tema reale, un tema che sarà concretamente affrontato con la prossima legge di stabilità. Questo non è un dettaglio di poco conto, perché significa che il governo sta certamente valutando possibili correzioni alla legge Fornero, ma solo in un quadro di tenuta complessiva dei conti pubblici, perché a volte noi lo scordiamo, però la riforma Fornero consentirà di risparmiare 80 miliardi di euro fino al 2020. Ci sono naturalmente diversi aspetti sotto osservazione, specie per una riforma, diciamo, così dura, così pesante come la riforma Fornero, ma di certo il punto centrale è la flessibilità del sistema pensionistico, alla quale ha fatto riferimento anche il neopresidente dell'INPS Tito Boeri. Come sappiamo, la riforma del 2012 ha spostato in avanti l'età della pensione, senza però prevedere nessuna possibilità di uscita anticipata. Quel che si sta pensando di fare ora è di consentire questi pensionamenti, chiamiamoli flessibili, accettando in cambio una riduzione dell'assegno pensionistico. Una cosa facile a dirsi, un po' meno a realizzarsi, perché pagando queste pensioni flessibili nell'immediato, la spesa previdenziale aumenterebbe per poi diminuire nel lungo periodo. Uno scambio che per ora l'Europa, molto attenta all'andamento dei nostri conti pubblici, non sembra proprio disposta ad accettare. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Il petrolio torna a salire. La quotazione del barile di greggio, cosiddetto Brent, è tornato intorno ai $60. Nei mesi scorsi era scesa clamorosamente a 45. Il calo era guidato dalle scelte strategiche dell'Arabia Saudita, interessata a impedire la remuneratività delle trivellazioni americane per il cosiddetto shale oil, il petrolio ricavato dagli sisti bituminosi, cioè dalle rocce, che ha bisogno di costosi sistemi di captazione remunerativi solo con prezzi al barile superiori ai $70-80. Era un modo quindi per impedire agli USA di perseguire la strategia dell'indipendenza energetica e dello sganciamento dalle forniture di greggio da parte dei paesi arabi. La guerra ribassista, fatta propria dall'OPEC, che ha bloccato per mesi l'aumento della produzione, ha messo fuori mercato anche importanti paesi produttori come la Nigeria e il Venezuela, che hanno visto crollare le loro entrate con seri problemi di bilancia commerciale e di conti pubblici, per non parlare poi della Russia, già colpita pesantemente dall'embargo per la crisi ucraina. Ora però il prezzo del greggio sta risalendo e sembra essere una tendenza destinata a durare, se si considera l'andamento dei cosiddetti official selling prices. Si tratta di prezzi anticipatori, fissati per contratti di fornitura di lungo periodo e corretti sulla base delle tendenze di mercato. Tanto a novembre la variazione a ribasso di quegli official selling prices applicati dall'Arabia Saudita aveva segnato l'inizio della guerra dei prezzi e dei ribassi, tanto oggi il loro leggero rialzo sembra dare corpo a una nuova stagione rialzista. Al di là della guerra globale, però, resta un problema e una conseguenza più di politica interna. L'inatteso sconto sulla bolletta energetica, dunque, potrebbe ridursi. Era, assieme al ribasso dell'euro e all'imminente iniezione di liquidità a bassissimo costo da parte della BCE, uno dei fattori quasi irripetibili che poteva favorire la ripartenza dell'economia. Ora è bene che il governo ne tenga conto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.